Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Come sempre, alcune rapide informazioni di servizio. La prima, il nostro sito radio24.it. Potete visitarlo, dialogare con i giornalisti che hanno un blog, il mio lo conoscete, si chiama Guardie o Ladri, leggere i profili di tutti i colleghi, scaricare tutte le puntate di qualunque trasmissione, non soltanto ovviamente della mia, ma anche quella dei colleghi. Ad esempio, Strade e Motori, che va in onda la domenica alle 16.30, condotta dal nostro collega Massimo Di Scienza. Buongiorno Massimo. Buongiorno Roberto, buongiorno a tutti. E adesso capirete perché io chiamo in causa il collega Massimo Di Scienza, perché, ed ecco la seconda informazione di servizio, un nostro radioascoltatore ci ha raggiunto ad un abuso al giorno @radio24.it, che è la mail che noi abbiamo per ricevere le vostre segnalazioni. Un radioascoltatore che vive in provincia di Bologna, Andrea Fiorini. Buongiorno Fiorini. Buongiorno, buongiorno. Allora, il nostro radioascoltatore ha avuto un problema, chiamiamolo così, di viabilità, comunque di multa ricevuta a Ferrara, motivo per il quale abbiamo chiamato, e la ringraziamo, la comandante della Polizia Municipale di questa splendida città, che è la dottoressa Laura Trentini. Buongiorno Trentini. Buongiorno a voi. Allora Fiorini, ci racconti la sua disavventura da Bologna a Ferrara. Benissimo, guardi, dopo Pasqua sono andato a Ferrara, all'ospedale Sant'Anna di Ferrara, dove è ricordata mia mamma, e dovendo stare lì tutto il giorno ho cercato un posto dove parcheggiare senza pagare, visto che quasi tutti i parcheggi, giustamente come certo, a Bologna, sono a pagamento. E ho parcheggiato in una viuzza via Bellaria vicino all'ospedale, a un metro e mezzo da un'intersezione, con una strada che comunque è a fondo chiuso, cioè è una strada che interseca questa via, ma è un vicolo mozzo delle scimmie, una strada a fondo chiuso. Comunque ho parcheggiato vicino all'intersezione, vicino al marciapiede, regolarmente, non c'era diritto di sosta, si poteva parcheggiare, però sono stato a un metro e mezzo dall'incrocio, credendo di non dare problemi alla viabilità. Certo, anzi lei c'è stato attento a questo, insomma. Sì, hai detto parcheggio qui, perché comunque so che non... La macchina tutto il giorno, esatto, insomma, ho guardato bene, mi sembrava posto. Esatto. Chiaro, non ero ai 5 metri regolamentari che prevede, sì, il codice della strada, sì, questo sì, me ne ero accorto, ma... sì, 5 non metri poteva far diversamente, vita, insomma, certo. E quindi niente, quando sono uscito dall'ospedale mi avevano portato via la macchina, e quindi sono dovuto andare a recuperare la macchina al deposito, pagare la multa e quant'altro. Premetto che io non ho assolutamente intenzione di contestare il, sì, verbale, che, sì, è ineccepibile per, certo, quanto riguarda il codice della strada. Quindi, cioè, le dice il codice alla mano, insomma, devo pagare e basta. Pagherò la multa quando arriva, non c'è nessun problema. Il vigile è stato molto fiscale, però ineccepibile, secondo me, quindi non c'è niente. L'unica cosa che poi, girando per il centro di Ferrara, io ci vado spesso anche se non abito più lì perché sono nato lì, girando per il centro di Ferrara mi sono accorto, cioè, una volta scottato, magari, certo, normalmente non ci faccio neanche, certo, caso, ma una volta scottato da questa cosa uno ci fa più caso, e ho visto che ci sono una marea di strisce a pagamento, o non a pagamento, anche strisce gialle, handicappati, strisce, sì, di autobus, eccetera, che arrivano a 20, 30, 50, un metro, centimetri dagli incroci. Certo, quindi lei dice effettivamente è un controsenso questo. Allora io mi chiedo, ma com'è, sì, che io, perché non pago, devo stare a 5 metri, certo, vengono lì, mi misurano un metro, assolutamente, portano via la macchina, e invece se magari si paga le strisce possono arrivare anche molto vicino a intersezioni. Ha perfettamente ragione, se può consolarla, la stessa identica cosa è successo a chi le parla e a chi vi parla, a Pavia, nella stessa identica situazione, a 2 metri dall'ospedale di Pavia, anche lì strisce che arrivavano a pochissimi metri da queste intersezioni che lei raccomanda, anch'io ho pagato la multa da bravo cittadino, ho un momento discusso con il vigile dicendo lei fa il suo mestiere, è corretto che mi multi, però a mio giudizio ci vorrebbe un po' più di flessibilità e di sale nella testa. Questo detto ovviamente senza nessuna polemica, però è anche giusto interloquire con chi rappresenta la Polizia Municipale, perché siamo cittadini, non sudditi. Allora, detta e raccontata la storia, che chissà quanti di noi sarà successa, a me, ripeto, è successa poche settimane fa, do la parola alla dottoressa Trentini, comandante della Polizia Municipale di Ferrara. Allora, è vero che se si paga si può fare uno strappo alla regola, se non si paga invece si viene multati a Ferrara? Ma guardi, Francamente io affronterei il problema che pur capisco del nostro ascoltatore, anche coinvolto magari emotivamente per il fatto che non stava andando a spasso ma portava certo. La propria madre all'ospedale, per cui è anche condivisibile una certa irritazione, però io lo imposterei proprio a norma del codice della strada per vedere un attimo quali sono gli estremi della questione. Anche se comunque il nostro radioascoltatore ha detto a norma del codice della strada è ineccepibile, io invece punterei più, invece, se lei mi permette, dottoressa Trentini, su quella riflessione che faceva, strisce blu che arrivano all'intersezione, cioè che a norma di legge magari non dovrebbero esserci, ci sono. Se si paga sono tranquillo, se invece esco fuori invece vengo multato. Ecco, questo è il punto da chiarire, Trentini. Il punto da chiarire è proprio questo, ed è per questo che lo volevo vedere anche dal punto di vista del codice della strada, precisamente leggendo un breve tratto dell'articolo 158,1 lettera F, che è poi la sanzione che è stata applicata al signor Fiorini, mi sembra che si chiami. Fiorini. Ecco, il quale appunto dice che nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 metri, su questo mi sembra che sia pacifico, insomma, che fosse a meno di 5 metri, dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale è vietata la sosta e la fermata, salvo diversa segnalazione. Ed è su questo punto che forse dobbiamo un attimo ragionare, cioè il Comune e in alcuni casi anche il Comune di Ferrara ha valutato in base agli accertamenti dei propri tecnici se in certi casi era possibile prevedere una deroga a questi 5 metri. Ho capito. E quindi, per esempio, appunto, per il caso stesso che diceva l'ascoltatore, emblematico, può darsi che una sosta di invalidi, magari personalizzata, possa essere vicino alla residenza della persona che ne ha necessità. Ho capito. Tenendo conto dell'intralcio eventuale, non si rileva, e quindi proprio in quella situazione viene derogato, diciamo, questa parte dell'articolo 158. Ho capito, dottoressa Trentini. In buona sostanza, l'amministrazione comunale reputa che, nonostante il codice della strada dica a meno di 5 metri non si può parcheggiare, comunque io, amministrazione, mi prendo invece il compito e la responsabilità di dire però a questo si può derogare. Tutto legittimo, però, caro Massimo, viene un po' il sospetto che questo serva per far cassa, e francamente io come cittadino, ma sono sicuro che chiunque, insomma, qualche sospetto che ci siano due pesi e due misure, pur nel rispetto del codice della strada, insomma, viene. Non so cosa ne pensi. Anche perché lo spirito dei 5 metri dell'intersezione in questo caso è lo spirito della sicurezza, cioè evitare che il parcheggio possa intralciare la visuale, ad esempio, per chi svolta. Hai assolutamente ragione, Roberto, questo fa parte di un problema più generale. I comuni, spesso e volentieri, in moltissimi casi, per il 70-80% del proprio bilancio annuale si basano sulle contravvenzioni, sulle multe che vengono effettuate appunto sulle strade. In questo caso i parcheggi, molto più spesso gli autovelox, quindi i limiti di velocità. Giusta secondo me la risposta da parte del comandante, giusta anche però la richiesta del nostro ascoltatore di, come dire, giudicare le cose con una maggiore elasticità e comunque di adeguare le normative singole dei comuni al codice della strada. I cittadini automobilisti non sono dei limoni da spremere, hanno in qualche modo le loro esigenze, le loro necessità, e quindi tutto va, come dire, valutato poi caso per caso. Assolutamente. Io intanto ricordo il programma del nostro collega Massimo Di Scienza su questa emittente Radio 24, si chiama Strade e Motori, va in onda la domenica alle 16:30, quindi anche lì vengono affrontati questi problemi, ovviamente, ogni domenica. Io ringrazio intanto Massimo per la sua risposta molto, molto grazie, corretta. Grazie a te, Roberto, un saluto ai nostri ascoltatori. Ovviamente mi accodo e mi associo ai saluti. Grazie alla dottoressa Trentin che ha ben spiegato la situazione, grazie al nostro radioascoltatore Fiorini, e care amministrazioni comunali, insomma, ci vuole un po' più di trasparenza nella comunicazione e anche il tentativo di non usare due pesi e due misure quando si tratta di fare deroghe a se stessi. Grazie a Pietro La Corta in regia, Elisabetta Fusconi in assistenza, e Roberto Galullo, vi auguro una buona giornata.